Ma sì, non è stato un fulmine a ciel sereno, la Annunziata ha fatto benissimo a prendere le distanze da questa operazione, un'infornata di nomine che non ha, tranne rare eccezioni, criteri editoriali, ma solo criteri di occupazione politica ulteriore, di ulteriore blindatura politica della RAI alla vigilia delle elezioni europee. E del resto è, come si suol dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, questa delle nomine. Non dimentichiamo che questa è la RAI delle censure e delle ridicole differite. Io vorrei rendere chiaro che sono le due facce di una stessa sporca medaglia. Da un lato c'è l'occupazione di tutte le caselle, dall'altro c'è l'ossessione del controllo politico. Ci si dimette dalla RAI che sta esponendo il servizio pubblico al ridicolo pensando di mandare in differita il concerto di San Giovanni. Questo è il motivo vero delle dimissioni. Vedere esporre così la RAI al ridicolo è una cosa che fa male innanzitutto a chi ci sta dentro, ma è un clima di grande preoccupazione e anche un clima di rabbia, ed è un clima di preoccupazione perché siamo certissimi del fatto che una RAI sempre più asservita, sempre più assoggettata, sempre più ridotta ad essere megafono di una persona sola, è una RAI che viene meno alla sua funzione di servizio pubblico e che viene percepita come ostile da tanta parte del paese. Pensiamo solo a quello che sta accadendo in questi mesi col sindacato confederale. La RAI lo tratta da avversario. La RAI di questi tempi è quella che ha negato le dirette alle grandi manifestazioni fatte nell'autunno scorso in occasione degli scioperi per la riforma delle pensioni. Ecco, una RAI così è una RAI ostile a tanta parte del paese, che rischia di recidere quello che è il suo legame più forte, l'affetto del pubblico. Noi non vogliamo rassegnarci all'idea che questa mutazione della RAI sia irreversibile. Certo, la RAI di oggi fa fatica, fa molta fatica ad essere percepita come servizio pubblico, però ci sembra importante non mollare e dall'interno noi dipendenti, dall'esterno i tanti cittadini e cittadine interessati a un assetto diverso della comunicazione, far sentire a questo vertice e a chi politicamente ne tira i fili che la RAI è di tutti, la RAI è anche nostra. Non possono pensare di annettersela come se fosse una porzione del giardino di Arcore.